le norme contenute nello statuto del contribuente e quindi a costituire dei principi, dei precetti di ordine generale. Quindi molto importante. Quali sono le garanzie e i diritti per il cittadino che sono contemplati appunto in questo documento? Io le darei qualche spunto suggerendole alcuni articoli, così li spieghiamo ai nostri ascoltatori. Credo che il più importante sia proprio l'articolo 3, quello che stabilisce il principio secondo cui le disposizioni tributarie non possono mai avere effetto retroattivo, le nuove disposizioni tributarie, dottor Savorana. Sì, allora, lo statuto del contribuente sostanzialmente pone dei vincoli al legislatore, tra cui quella della non retroattività delle norme tributarie. Di fatto però lo statuto dei diritti del contribuente, la legge può essere derogata e ci sono ormai stati più di 300 casi di retroattività di norme del governo che hanno in questo caso disatteso questo principio. Il fatto che una norma non possa mai essere retroattiva è importante. È importante soprattutto che nei vincoli del legislatore, nei principi, è che la norma, una nuova norma può entrare in vigore solo dall'esercizio successivo, dal periodo di imposta successivo rispetto a quella in cui è stata emanata. Gli altri sono i diritti e le garanzie che sono date al contribuente, consentite al contribuente, e tra l'altro i diritti all'informazione, il diritto alla trasparenza degli atti, il diritto all'integrità patrimoniale, il diritto alla chiarezza e alla motivazione degli atti. Cioè tutti gli atti della pubblica amministrazione devono essere motivati? Assolutamente sì. No, nessuno può essere tenuto a pagare un'imposta senza che abbia avuto una informazione preventiva sul motivo per cui questa imposta deve essere pagata. C'è anche il diritto del contribuente sottoposto a verifica fiscale, una verifica che deve essere effettuata in determinati tempi, oltre ai quali naturalmente poi il contribuente può dire la sua se non vengono rispettati. Allora, era il diritto riguarda sostanzialmente quello degli accertamenti. Fondamentalmente colui che è sottoposto a una verifica fiscale ha dei diritti di contraddittorio nel corso della verifica fiscale. L'amministrazione finanziaria non può stare più di 30 giorni nei locali del contribuente e addirittura il contribuente può chiedere all'amministrazione finanziaria che la verifica venga tenuta fuori dai locali dell'impresa o dall'esercizio dell'attività. Dottor Savorana, la casistica è sicuramente molto ampia, riuscire a fare un esempio rappresentativo è difficile, ma tanto per farci capire dai nostri ascoltatori e far capire loro anche che supporto pratico può dare questo documento. Se il fisco genera dei dubbi noi contribuenti, se ci fa delle richieste che riteniamo non corrette, come ad esempio avvisi di accertamento, ne abbiamo parlato, che riteniamo non essere nel giusto, che facciamo sulla scorta di quanto stabilisce lo statuto? A chi ci rivolgiamo, oltre che naturalmente chiedere un suggerimento ad un bravo commercialista, ma qual è lo step successivo che dobbiamo fare? Beh, sono contento che che ho precisato che bisogna rivolgersi ad un commercialista. No, la prima cosa è stare calmi. La cosa più importante è stare calmi, perché bisogna leggere l'atto, verificare l'atto. L'atto deve essere composto da una serie di informazioni, di richieste, deve essere indicato il responsabile del procedimento e il soggetto al quale il contribuente può rivolgere un ricorso per contrastare l'accertamento o comunque la rettifica della propria dichiarazione dei redditi o la cartella, esatto, il ruolo che gli viene notificato. E quindi? Oltre a stare calmi, dopo che cosa si fa però? Dopo si cerca di vedere se riusciamo ad avere ragione. L'importante è che il contribuente abbia tutta la documentazione a supporto che consenta praticamente all'amministrazione finanziaria di verificare la bontà praticamente delle sue ragioni. Dottor Savorana, lei fa il commercialista. Quando ha suggerito ad un suo cliente di presentare magari un ricorso invocando lo statuto del contribuente? Allora, lo statuto del diritto del contribuente lo invochiamo quando effettivamente sono violati i principi di trasparenza e di chiarezza negli atti. Questo sostanzialmente avviene quando l'atto è poco chiaro o quando fondamentalmente manca un precetto di trasparenza e di notifica o comunque quando vi è un motivo di ritenere che si sia violato il principio di retroattività della norma. Voi avete fatto anche una proposta al Parlamento europeo per portare a Bruxelles questo documento? No, noi abbiamo fatto lo statuto dei diritti del contribuente, lo abbiamo elaborato sulla base, sul tessuto praticamente dello statuto del contribuente italiano, anche perché in 27 stati comunitarie l'armonizzazione sotto questo aspetto è fondamentale. Certo. Cioè il contribuente italiano o l'impresa, la persona fisica deve avere le stesse garanzie e gli stessi diritti in Francia piuttosto che in Germania e in Inghilterra. Il problema fondamentale è che in questa carta di diritto del contribuente, e qui c'è stata un'audizione a Bruxelles dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, abbiamo inserito però dei vincoli maggiori, cioè quello che non possono essere assolutamente mai oggetto di deroga le norme tributarie, quindi non possono mai avere effetto retroattivo. Benissimo. Un'ultima indicazione di servizio, dottor Savorana, poi la salutiamo. Se i nostri ascoltatori volessero leggerlo, documentarsi sullo statuto, dove vanno a prenderlo? Su Sole 24 Ore, su internet trovano il testo di legge, poi su internet digitando lo statuto del contribuente trovano le sentenze della Cassazione. E speriamo che ogni bravo commercialista ne abbia una copia in ufficio, naturalmente. Sì, la ringrazio molto. Buona giornata. Arrivederci, dottor Savorana. Alessandro. Eccoci qua. Oggi noi a Salvadanaio torniamo sulla questione dell'acqua in bottiglia o dal rubinetto, quale scegliere? Leggo che ad Arezzo leggiti oggi c'è Repubblica, una storia su Arezzo. Ce n'è una anche Bevono in Australia, tutti. Molto divertente, che hanno addirittura bandito, quella ci ha incuriosito di più, hanno letteralmente bandito l'utilizzo dell'acqua in bottiglia, È vero, ma ad Arezzo oggi scrive Repubblica, bevono tutti dal rubinetto. Vado a vedere subito. Le 8:34 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, le notizie in primo piano sono queste. Una nuova scossa di terremoto ha colpito stamattina l'isola di Sumatra, dove si scava tra le macerie. Ci sono migliaia di persone intrappolate, i morti accertati sono almeno 460. In Italia passa la fiducia sullo scudo fiscale alla Camera, oggi il voto finale sul provvedimento. Intanto il ministro dell'economia Tremonti attacca le banche che hanno rifiutato di sottoscrivere i bond. Non fanno un favore alle imprese, ha detto. In TV è polemica per la partecipazione stasera ad Anno Zero della escort barese Patrizia Daddario. Il Popolo della Libertà per tutta risposta diserterà la puntata. Per il calcio, la Champions League, 0-0 della Juventus a Monaco contro il Bayern, clamorosa sconfitta invece del Milan, 1-0 a San Siro contro lo Zurigo. Stasera in Europa League, Roma CSKA di Sofia, Levski Sofia Lazio e Valencia Genoa. E allora le 8:35, detto che il sondaggio di ieri si è concluso con il 72% che hanno detto sì alle proposte di Brunetta di controllare la produttività dei magistrati, oggi parliamo di Roman Polanski. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Roman Polanski, sapete chi è? È un grande regista, è un cineasta, è un artista, parte della storia del cinema, grandissimi film, e però da 3 giorni è in carcere a Zurigo. Perché? Perché gli Stati Uniti lo richiedono per via di una vecchia vicenda, 1977, lo stupro ai danni di una tredicenne. Il mondo del cinema dice molto unito, basta rivangare questa storia, è un grande artista, lasciatelo stare, in Francia gli intellettuali, i politici hanno detto è una cosa vergognosa. Che ne pensate voi? Potete votare sul sito radio24.it o ilsole24ore.com. Io voglio salutare la storia del cinema, se posso dire. Mario Monicelli, buongiorno. Buongiorno. Lei lo conosce molto bene, Polanski, no? So che... Sì, sono stato... amico a lungo di lui, l'ho conosciuto a Los Angeles, poi ha fatto il suo primo film di sua moglie. Che dice, brutta storia questa, no? Ma la brutta storia era già da 30 anni fa, quando è cominciata, quindi poco da fare. Però il fatto è, in questo momento, le cose sono svolte 30 anni fa. C'è questa cosa, la prescrizione esiste in tutti i reati, non si sa perché, ovviamente questo di Polanski non può dopo 30 anni cadere in prescrizione. Su un reato la cui vittima, a quanto pare, ha detto che per conto suo la cosa è conclusa è perdonata. Sì. Vittima, poi non si sa bene se è proprio vittima. No. Quindi adesso c'è un grande regista, un grande spirito che ha fatto delle cose importanti, di cui l'altro, ripeto, è caduto in prescrizione. La vittima ha detto: ma lasciamo andare, facciamo la ferita. C'ha quanti anni c'ha? 75, 80, sì. 80 anni. Glielo impedire di esprimersi attraverso un mezzo che lui conosce in maniera profonda, che ci ha dato importanti input. Sì, quindi lei è democratico. Perché il mondo del cinema si è unito a registi di altissimo livello in tutto il mondo. In Italia ho visto Bellocchio, Placido, Asia Argento, sì, Monica Bellucci. Lei non l'ha firmato però l'appello. Però lo sottoscrive idealmente? Ma veramente sì, ma io non l'ho firmato perché nessuno me l'ha chiesto, non lo sapevo nemmeno che c'era, se no l'avrei firmato. L'avrebbe firmato? Sì, l'avrei firmato, sì. Ripeto, perché sto dicendo le ragioni per cui l'avrei firmato. Però capisce, cioè lei dice in prescrizione. Non sapevo neppure che ci fosse. Non sapeva ci fosse. Però, lei dice prescrizione, il reato però è odioso, voglio dire, una tredicenne. Sì, certamente che è odioso, voglio dire, però i reati sono tutti odiosi. Se reati di stupri, di omicidi, eccetera, cadono in prescrizione dopo una certa data, si sa poi perché non dovrebbero mai cadere in prescrizione, questa è la verità. Invece cadono in prescrizione, cioè questo. E allora perché quello di Polanski non può mai cadere in prescrizione? Insomma, lei la vede come una vicenda. Stia con noi, maestro. Insomma, adesso poi so che 10 minuti la liberiamo, come promesso. Però io voglio salutare anche Maria Laura Rodotà. Buongiorno. Buongiorno. Editorialista del Corriere della Sera. Ha sentito la storia di uno dei monumenti della storia del cinema con noi, Mario Monicelli. Non l'ho sentito molto. Vabbè, comunque dire. Dice, io avrei firmato, non sapevo neanche dell'appello, ma l'avrei firmato anch'io. Insomma, la prescrizione, cioè per tutti i reati, è una vicenda passata. No, la prescrizione non c'è per alcuni reati. E io penso che un reato contro la persona grave come l'aver abusato di una tredicenne in quel modo non debba mai andare in prescrizione. Io non sono una forcaiola né una bacchettona. Sul Corriere ho solo fatto qualche obiezione e quello che ho visto, io poi modero un forum sul Corriere.it che si chiama Avanti Pop, che le reazioni delle persone che ci seguono sono state quelle spessissimo, non c'è stata una divisione come c'è spesso ormai in Italia tra destra e sinistra, cioè non è difendere Polanski non è una cosa colta e di sinistra, specialmente da parte delle donne, da parte di qualche uomo forse sì. L'altra cosa che ho notato è, come dire, un'arrabbiatura liberatoria che va al di là del caso di Polanski, che secondo me è odioso. Io capisco che ha 76 anni, ma capisco anche che nonostante delle irregolarità processuali probabili che ci sono state, c'è un documentario di Marina Zenovic presentato al Sundance Festival dell'anno scorso che lo racconta, lui è sfuggito alla giustizia, ha fatto 42 giorni sostanzialmente una struttura psichiatrica, neanche in carcere, e non è quello il prezzo che si paga per una vicenda del genere, ecco. Però io credo che in Italia siamo particolarmente sensibili a questa storia perché sono mesi da quando si è cominciato a parlare di possibili strani rapporti tra uomini di successo in età e minorenni, e forse molte persone di centrodestra, magari costrette in questo periodo a dire ma no, ma sono affari di chi lo fa, avere a che fare con delle minorenni eccetera, non compromettono, su questa cosa si sono sfogati. Questa è la mia sensazione. In ogni caso lei tra l'altro ha scritto evitateci, questo era il titolo, il lodo Roman, cioè voglio dire farà il lodo Polanski, sì, avrà fatto dei gran film, farà dei gran film, li potrà ancora fare, ma sì, questo ma non gli dà diritto insomma. Di una persona è totalmente disgiunta dai suoi comportamenti personali, specie quelli legalmente perseguibili. Se si trattasse di un muratore rumeno l'avremmo già chimicamente castrato probabilmente. E questo è un tema, è un tema interessante. Un oratore rumeno, un genio, facciano ubriacare, drogare, poi abusino e sodomizzino una ragazzina di 13 anni. Non scordiamoci cosa ha fatto. A me fa orrore solo ripeterlo. Sì, sì, è vero, è stata anche una violenza, insomma, come è descritta anche negli atti processuali, quello che c'è stato nell'inchiesta, molto molto, in più, molto brutta. Ecco. Non scordiamoci, a me dispiace perché dispiace parlare di queste cose anche a quest'ora, ma Polanski, non scordiamoci che 32 anni fa ha patteggiato, il che vuol dire che ha messo tutte quelle cose sotto giuramento, ma al di là di tutto la cosa è configurabile come stupro di una minorenne, molto minorenne, questo sì. Monicelli, prima di lasciarla e nel ringraziarla insomma per questi 10 minuti che ci ha dedicato, le chiedo, Maria Laura Rodotà ha fatto un'accusa ben specifica, cioè non è che il fatto di essere un genio del cinema, una persona, uno spirito libero, uno spirito che ci ha regalato tantissimo, però gli consente di avere comportamenti così, e il mondo del cinema lo difende per questo, per la sua arte. Questo non lo consente di certo. Resta il fatto che, però, voglio dire, è una cosa di cui lui si è confessato, che ha detto che l'ha fatta. Ma non ha pagato. Non ha pagato, però. Non insisto nel dire, la vittima non vuol fare una questione, anzi pare che l'abbia l'ha perdonato, ma questo che c'entra? Lui non ha pagato, cioè non è che tutte le vittime che perdonano un carnefice. Basta, non ha pagato. Io credo che il fatto di pagare, vogliamo che sia messo in carcere e chiuso dentro, così va bene, l'ha pagato perché ha passato tutta la sua vita non potendo fare il mestiere che voleva fare, dove voleva farlo, dove era diventato importante. In fondo è stato sempre fuggiasco, un reietto, è arrivato a quasi a 80 anni, vuol dire, capisco l'accadimento che può avere, non parlo di accadimento, ma insomma il risentimento che può avere una donna, forse l'uomo non ha questa sensibilità, non so, io credo di sì invece, ma insomma voglio dire, il fatto che anche tutte queste persone chiedono, non è che non ha commesso reato, la cosa è abominevole, eccetera, però non pare che a questo punto si può fare a meno di metterlo in galera, a questo punto impedire che ci racconti qualche altra cosa sui rapporti con le persone, sull'olocausto, sul sacrificio, sulle verità, sui sentimenti, quello che ha fatto lui per tutta la vita, con dei film importanti, sui sentimenti, insisto. Quindi va bene, ho capito, ne abbiamo parlato tanto, è diventata la berlina di tutto il mondo. Non è parlato abbastanza. Lei dice di sì. No, in galera, chiuso, fermo. Va bene, e allora mettiamo in galera, chiuso, fermo, e allora saremo contenti. Già in galera adesso c'è, ma voglio dire in attesa di estradizione. Io la ringrazio molto per essere stato con noi, Mario Monicelli. Devo andare a dare il traffico, però rimanga con noi Maria Laura Rodotà. Tra l'altro interessante, Monicelli dice forse la sensibilità che ha una donna su un tema del genere non è la stessa sensibilità che abbiamo noi uomini, anche se Monicelli dice io non sono d'accordo, secondo me non è così, però effettivamente sono pochissime le donne che hanno firmato questo appello, tantissimi gli uomini del mondo del cinema che l'hanno firmato. Comunque rimanga con il traffico. Intanto voglio salutare anche Richard Eusé. Buongiorno Eusé. Buongiorno. Giornalista di Le Figaro, che tra l'altro si trova in Svizzera a seguire il caso. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Bisogna dire che per il momento l'80% delle persone nel nostro sondaggio dice no, non siamo d'accordo col mondo dello spettacolo che difende, chiede la scarcerazione di Polanski, ma insomma deve pagare per questo reato. Come detto, Richard Eusé è il corrispondente in Italia del Figaro. Eusé, lei si trova in Svizzera, tra l'altro, in questo momento, dove la tensione, immagino, c'è. Insomma, si accusa anche la Francia di avere difeso con uomini politici importanti Polanski. Sì, ma soprattutto, senza pronunciarmi sul merito, perché ovviamente non è il mio compito, soprattutto quello che stupisce in Svizzera è il modo nel quale lui è stato arrestato, perché era invitato ufficiale di un festival di cinema di Zurigo è venuto in buona fede, ovviamente, ed è stato arrestato all'aeroporto. È sorprendente come sottolineano i commentatori svizzeri, è molto sorprendente perché Polanski era abituato a venire in Svizzera, ci veniva a sciare regolarmente, a un chalet a Stuttgart, bello chalet, è venuto al festival di jazz di Montreux l'anno scorso. Dunque tutto questo sembra, qui si parla molto di della polizia. Sì. La cosa è tutto sommato, in Svizzera è piuttosto la polizia e il ministero dell'interno che sono sotto accusa più che Polanski. Questo è vero, cioè per le modalità. Tra l'altro Rodotà ha detto Monicelli, ma insomma che vogliamo? Vogliamo metterlo in una gabbia chiuso? Va bene, mettiamolo chiuso in una gabbia, ma lui ha vissuto da Reietto, ha vissuto da Fuggiasco, ha vissuto già con una condanna permanente che si porta dietro. Poi forse la sensibilità delle donne, dice, certo è più ampia su questo tema rispetto a quella che può essere la sensibilità di un uomo, però che vogliamo fare? Lo buttiamo in una cella a 75 anni? Beh, se va in cella la condanna è di 50 anni di carcere, dunque vuol dire che ci rimarrà fino alla fine della sua vita. E i suoi avvocati sperano bene una revisione del processo. Il giudice che l'aveva condannato è ormai è deceduto, sì. Ma sembra che ci siano stati gravi irregolarità nel suo processo. Questo anche c'è da dire. Rodotà, lei che ne pensa, insomma? Di cosa? Ma anche quello che dice Monicelli, sia anche della sensibilità diversa uomo-donna e sia del fatto... Sensibilità diversa uomo-donna, quando c'è una norma giuridica e un reato grave contro la persona, non è questione di sensibilità uomo-donna, non buttiamola su questo piano, perché questo mostra come le élite europee, quelle di destra di cui molti di noi si sono scandalizzati e quelle di sinistra del mondo del cinema eccetera, siano tutte, diciamo, vittime o protagoniste di una deriva misogina, perché il povero 76enne è oggetto di appelli e mobilitazioni degne di miglior causa, le minorenni non vengono più prese in considerazione. Combendì l'ha detto, chi sta dalla parte delle bambine? È stato secondo me il politico francese migliore, è quello che ha tenuto l'atteggiamento più serio. L'UMP devo dire ha avuto un atteggiamento come altri che si sono mobilitati, sprezzante verso i diritti della persona, e si tratta di gruppi sociali che invece si sono sempre pregiati di mobilitarsi per i diritti umani. Vediamo se Antonella da Sassari che ne pensa, ce la facciamo, un'ascoltatrice in questo caso. Antonella, buongiorno. Buongiorno, Antonella da Carbonia. Carbonia, perfetto, dica. Io volevo solo fare una semplice domanda. Vorrei chiedere alle persone che difendono tanto Polanski se fosse stata una loro figlia essere trattata così, in quel modo così brutale, sarebbero così comprensivi? La domanda è retorica ma perfettamente azzeccata, insomma, si può dire. Antonella, grazie. Richard Heuzé, Combendì, che è il leader dei veri, insomma uno dei leader del 68, è quello che ha detto, ma scusate, uscendo dal coro, e questa bambina nessuno la difende, cioè perché il mondo politico è abbastanza compatto? Ieri Sergio Luzzatto sul Sole 24 Ore è stato molto duro a dire la Francia ancora con i suoi fantasmi della difesa degli intellettuali, come ha difeso in passato i terroristi, non riesce a fare i conti con questi, con questo crimine, con un certo insomma atteggiamento intellettuale, a dire ma no, ma cerchiamo di capire perché la Francia così compatta. Sì, diceva da Battisti a Polanski, un po' sì, forse da Battisti a Polanski il paragone è un po' azzardato, però insomma il concetto c'era. Ma io penso che sia la reazione del mondo del cinema soprattutto che abbia influito, e Frédéric Mitterrand, che è il ministro della cultura, viene da questo mondo. Ma quando si sente registi come Wim Wenders, Pedro Almodovar, Ettore Scola, Claude Lelouch, che trovano, non giudicano sul merito di nuovo, ma trovano inammissibile che una manifestazione culturale sia utilizzato per una trappola della polizia. Ed è soprattutto su questo mi sembra che ci sono molte reazioni ostili e negative. Sì, sulla modalità dell'arresto. Modalità, cioè. Esattamente. Io vorrei concludere, Maria Laura Rodotà, le chiedo, però questa vicenda si sapeva già da tempo, è una vicenda che ha accompagnato Polanski, che non ha mai messo piede negli Stati Uniti, quando ha vinto l'Oscar ha mandato Harrison Ford a ritirarlo per lui, eccetera. Però nessuno si è mobilitato dall'altra parte in maniera scandalosa contro Polanski fino a tre giorni fa sull'arresto. Cioè, ma sulla modalità dell'arresto ci sono molte teorie, sì, e probabilmente il collega del Figaro saprebbe illustrarle molto meglio. Nessuno vuole accanirsi su Polanski. Quello che si vorrebbe affermare in questo caso, ma anche per affermare i diritti di chi è meno importante di Polanski, è meno influente, ha meno amici, è che una minorenne ha il diritto di non essere stuprata e che chi commette un reato grave come lo stupro di una tredicenne non la fa franca, a prescindere poi che Polanski passi del tempo in galera. Al di là di un po' di giorni in Svizzera, io ho dei seri dubbi. Sì, ma infatti, ma c'ha pure 76 anni. Verrebbe da dire che non è questo il punto, no? Cioè, quasi non è questo il punto. Detto questo, quello che indigna molte persone, e gli stessi lettori del Figaro hanno votato online con percentuali del 65-70%, contro la linea dell'UMP, che è il partito che la maggior parte di loro ha votato quando ha votato Sarkozy. La questione è non accanirsi su Polanski, ma affermare il diritto delle tredicenni a essere tredicenni e a essere protette dalla legge contro chi si comporta in questo modo. Certo, non far passare anche subdolamente il diritto di dire ma sì, è un grande regista, dunque se anche abusato di una tredicenne chi se ne frega. Questo è fondamentale. Io vi ringrazio, Maria Laura Rodotà, Mario Monicelli, che è stato con noi all'inizio, e Richard Husset, che è il corrispondente d'Italia delle Figaro. Ci fermiamo, potete votare sul sito radio24.it, sole24.com, alle 13 vi diamo i risultati. Per ora l'80% è contro la mobilitazione pro Polanski. Alessandro Marcotulli in redazione, Peter Bescapè in regia. Ci sentiamo domattina alle 7:30.